Radio 24 Reportage. Stop alle telefonate dei call center di Anna Marino. Ah, perché voi siete persone? Speciali! E fate un lavoro? Speciali! E allora forza ragazzi, diciamo buongiorno a questa nuova splendida giornata! Lo avete riconosciuto? E tutta la vita davanti è un film del 2008 diretto da Paolo Virzì, liberamente ispirato al libro Il mondo deve sapere di Michela Murgia. Si tratta di una commedia agrodolce sul precariato, raccontata attraverso il mondo dei call center, e sotto traccia c'è anche la questione del telemarketing selvaggio. Prima o poi siamo stati tutti bersagliati dalle chiamate che arrivano in qualsiasi momento, di solito quello sbagliato, per proporre contratti o prodotti, anche più volte al mese o al giorno, e anche se avete detto di no. È il telemarketing selvaggio che vorrebbe contrastare una norma contenuta nel testo del DDL concorrenza e approvata dal Senato, norma che prevede la possibilità di respingere nuove chiamate non desiderate dopo la prima a tutti gli utenti, anche se non sono iscritti al registro delle opposizioni, cioè l'elenco dei numeri fissi nascosti, per così dire, agli operatori dei call center. È critica però l'autorità garante per la protezione dei dati personali e spiega perché Giuseppe Busia, segretario generale. Perché consente agli operatori di effettuare una chiamata senza il preventivo consenso. L'unica tutela data in mano al cittadino è quella di non dare il consenso a proseguire la chiamata. Banalmente posso chiudere la cornetta. Di fatto la pubblicità arriva, il disturbo arriva, l'utente non ha più alcuna difesa. La norma infatti, secondo il garante, si dovrebbe e si potrebbe migliorare così. Consentire che l'iscrizione al registro sia appunto aperta anche ai cellulari, a tutti i numeri, soprattutto che l'iscrizione al registro cancelli tutti i consensi dati in precedenza. Questo bombardamento degli utenti non fa bene alle imprese che intendono pubblicizzare i loro prodotti. Riportare i call center in Italia, secondo alcuni, potrebbe risolvere non solo il problema delle telefonate indesiderate e del telemarketing aggressivo, ma anche il versante occupazionale e l'obiettivo del Ministero dello Sviluppo Economico, che punta a creare così 20.000 posti di lavoro, e dell'obiettivo del protocollo d'intesa sui call center firmato il 5 maggio scorso. Così il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni precisa. Tutto questo andrà seguito da vicino, andrà monitorato, sia per evitare concorrenze sleali, violazioni, e sia per monitorare l'evoluzione che la tecnologia e il futuro ci daranno in questo senso. Ma intanto abbiamo gettato un'ancora di protezione sociale in un momento particolarmente delicato e in un settore, ripeto, con un'intensità di lavoro particolarmente importante. Un passo avanti volontario perché riguarda 13 aziende di peso del comparto, il 65% del settore, per rinforzare l'ultima novità sul fronte della tutela del lavoro in Italia. L'abbattimento dei costi ha determinato infatti una delocalizzazione sempre più considerevole in Romania, Croazia, Bulgaria, Albania e Tunisia. Dal 1 aprile invece l'operatore di un call center collocato in un paese extraeuropeo deve fornire al cliente che lo richiede la possibilità di parlare con un operatore in Italia o in Europa, con il trasferimento immediato senza attaccare, senza costi aggiuntivi. L'obiettivo del protocollo infatti è quello di mettere ordine nel settore, tenere il lavoro in Italia, impegna a tenere in Italia almeno l'80% di chiamate in outsourcing, e vengono stabiliti livelli per la conoscenza della lingua italiana e per il costo del lavoro. Un lavoro, quello dei call center, che sta diventando sempre più stabile, come sottolinea il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Il settore dei call center occupa 80.000 persone in Italia, ha un'incidenza del costo del lavoro sui ricavi di circa il 76%, vale a dire un settore che si fonda sul lavoro, ha pochi altri elementi, ma soprattutto in Italia ha un turnover di risorse umane del 3,4% e una percentuale di persone sopra i 30 anni dell'87%. Questo vuol dire che è un settore che ha una particolare complessità, non è in Italia un punto d'ingresso al mercato del lavoro per pochi anni, ma spesso rimane l'occupazione per molto tempo, un'occupazione per tante persone che hanno difficoltà a ricollocarsi. È un settore, dicevo, che è andato attraverso un periodo di grandissima difficoltà, è scesa la marginalità in poco più di 5 anni dal 14% al 5%, quindi con una contrazione molto significativa. Ed è un settore molto esposto, più esposto di molti altri alla delocalizzazione. Perché più di molti altri? Perché essendo la variabile costo del lavoro Di fatto l'unica variabile o la variabile più importante, di gran lunga più importante, chiaro è che dove il costo del lavoro è inferiore, sia nei paesi extra UE che nei paesi UE, si tende, c'è uno spostamento tendenziale dei call center. Con ricadute che abbiamo visto in alcune crisi molto difficili in Italia, è del tutto evidente che col tempo e con la tecnologia il ruolo dei call center cambierà. Ma una cosa che cambi nel tempo e possa essere accompagnato da politiche di supporto, una cosa che cambi rapidissimamente spiazzando tantissima gente e mettendo famiglie e lavoratori in condizioni di difficoltà. I firmatari del protocollo aperto ad ulteriori adesioni sono Eni, Enel, Sky, Intesa San Paolo, TIM, Fastweb, Poste Italiane, Trenitalia, NTV, Wind 3, Unicredit, Vodafone, Mediaset, AssoContact, Associazione Nazionale dei Contact Center aderente a Confindustria Digitale. Attraverso il suo presidente Paolo Sarzana fa notare come questo protocollo sia non vincolante e da monitorare in futuro, dal momento che l'adesione delle aziende è volontaria e non obbligatoria e che di conseguenza si tratta di un'operazione che rischia di limitarsi a una moral suasion generica. L'obiettivo è, coerentemente alla norma che è stata approvata all'interno della legge, diciamo, finanziaria 2017, e tutelare, come dire, il lavoro italiano, immaginare in questo caso anche delle percentuali previste da parte dei grandi committenti rispetto all'attività che possa essere gestita sul territorio italiano e non in modalità delocalizzazione da parte dei fornitori. Il protocollo però è anche un passo avanti rispetto, come dire, alla moralizzazione del mercato. Nel senso che poi per far sì che questo mestiere venga effettuato sul territorio nazionale da operatori italiani, che hanno quindi dei contratti di lavoro italiani con dei loro valori, è fondamentale che la committenza tenga conto dei costi del lavoro con dei livelli, come dire, di riconoscimento dei prezzi di questi servizi, tale che i fornitori, come dire, possano trovare a loro volta un equilibrio economico. Quindi, c'è una discussione aperta tra il fronte che vuole il libero mercato e quello che invece vuole maggiore regolamentazione. Ecco, cosa sarebbe meglio? La maggiore regolamentazione, come in atto da parte del MISE, è sicuramente auspicabile. Perché al netto, come dire, di rispettare normative europee o globali, come dire, sui concetti di libero mercato, questo settore dei call center, come dire, in questi anni ha prodotto però una serie di crisi dovute, come dire, a fenomeni di gara al massimo ribasso e quant'altro, che poi hanno inciso, come dire, anche sulla pace sociale, sui lavoratori del settore. C'è un discorso, come dire, di collaborazione da parte delle associazioni datoriali con il MISE, proprio volto a far sì che tutto ciò possa successivamente anche essere tradotto in regole ancora più efficaci, diciamo, ecco, rispetto a una tutela del settore. Il settore sta diventando più stabile, il lavoro non è più un lavoro di passaggio? Assolutamente sì, nel senso che dalle stabilizzazioni della legge Damiano del 2007 ad oggi, questo settore in Italia esprime circa 80.000 risorse, di cui sono la metà lavoratori dipendenti e molti dei quali ormai, come dire, fanno questo mestiere da molti anni. Per quanto riguarda appunto le aziende, gli operatori che sono anche i vostri associati, avete già delle regole, dei codici etici? Quali sono? Sì, noi, guardi, come AssoContact abbiamo, lo può trovare sul sito, come dire, un codice di autoregolamentazione, un codice di autodisciplina, diciamo, un codice etico che prevedono, come dire, delle regole che ci siamo dati per cercare di far sì che i nostri associati, come dire, facciano questa attività nel massimo rispetto del consumatore finale. Ecco, questo è un po' il sunto, diciamo, specie per quanto riguarda l'attività di vendita, che è quella che molto spesso più disturba, no, il consumatore finale. Quindi rispettare certi orari, rispettare certe giornate. Spesso succede che appunto ci sono delle restrizioni o delle problematiche che riguardano la privacy. Oltretutto molto spesso i consumatori non sanno come togliere il proprio numero dalla serie di contatti anche ripetitivi. Ecco, in tal caso che cosa si può fare? Il DDL concorrenza, che è stato approvato al Senato con un maxi emendamento, ha previsto, come dire, un'ulteriore novità in materia di telemarketing, perché solo di questo stiamo parlando. Noi abbiamo, come AssoContact, collaborato negli ultimi mesi, partecipando anche a un'audizione, come dire, al Senato su questa vicenda, auspicando che anche i numeri di telefoni cellulari potessero iscriversi al registro delle opposizioni, così come i numeri fissi non pubblicati, come dire, negli elenchi del telefono, in modo tale che chiunque possa, come dire, esplicitare il fatto di non voler essere contattato, lo possa fare. Quindi un aggiornamento e un rinnovo del registro delle opposizioni in un'ottica di maggiore salvaguardia del consumatore. Questo è importante perché ristabilisce la fiducia tra chi chiama e chi viene chiamato. Ecco, ci sono fino adesso delle regole anche per quanto riguarda il lavoratore del call center? Da questo punto di vista vuoti normativi non ce ne sono, nel senso che esiste un contratto nazionale di categoria normalmente utilizzato per quello delle telecomunicazioni, quindi tutte le società che hanno lavoratori dipendenti, come dire, applicano queste regole che sono quelle contrattuali. Altro è, come dire, modificare il sistema di regole in occasione delle gare, in occasione del rinnovo delle commesse, in modo tale che da evitare che questi rinnovi implichino, come dire, dei ribassi che in alcuni casi rischiano poi di inficiare proprio la sopravvivenza economica di molti fornitori che poi inevitabilmente entrano in crisi e questa cosa poi abbia un impatto sociale. Quindi qualificare questo lavoro in modo tale che questa qualità venga riconosciuta dai committenti anche da un punto di vista del riconoscimento economico, e quindi il sistema si qualifichi e consenta un equilibrio per tutti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.